Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. una delle caratteristiche di Charlie è quella di suonare spesso anche melodie popolari. La prossima è questa Amazing Grace, che è una canzone, una melodia che lui aveva mutuato un po' dalla cultura scozzese, da musiche comunque musiche popolari, folk, anglosassone, un brano molto di colori molto popolari. Questa è una delle sue caratteristiche che non ha mai abbandonato, in cui mai si è mai vergognato anche di fronte alle critiche che sono arrivate spesso da molti musicisti, che è quella di essere a volte troppo popolare nelle sue linee melodiche, di essere spesso altamente fregato. Thank you. Thank you.

chiedere, questa dedicata ai movimenti di liberazione delle lotte anti-dittatura nel paese del Sud America, l'ultimo brano, il prossimo, che è il brano che vi salutiamo, sempre la sua composizione, che un po' come Sandino riecheggia in certi punti delle melodie, quasi dei canoni seicenteschi europei, ma Charlie Anna spesso ha confessato, tra virgolette, comunque di attingere melodicamente molto anche dalla cultura classica europea, da Bach e soprattutto. Vi ringraziamo moltissimo di essere stati con noi in questo splendido luogo, ringraziamo ancora una volta Nando e Cristiana di ospitarci. Grazie a Mirko Mariani e Marco Ricci che sono intervenuti, grazie agli amici di Radio Teatrale di Teramo che stanno riprendendo in diretta la serata, la stanno trasmettendo in diretta nella loro radio, e anche i vostri applausi sono ascoltati in tutta Italia. Vi ricordiamo che in via del tutto eccezionale, dopo il concerto, dopo l'ultimo brano, la serata continuerà nell'altra stanza dove Patrizio deve avere i suoi cioccolatini, i suoi famosi cioccolatini, il suo cioccolato, è vero, surrogato, è un surrogato, con la mia interpretazione del suo quadro. Ma poi ci sarà anche una sua interpretazione del famoso sommelier, che direi è probabilmente uno dei motivi fondamentali per cui siamo tutti stasera. Bene, grazie ancora di essere stati qui. Malatempora, questi maltempo, non dimenticare mai questi tristi avvenimenti e soprattutto di ogni tanto riflettere sul razzismo e la xenofobia che si stanno di nuovo serpeggiando tra, vuol dire, tra le nostre genti. Per cui il 24 maggio speriamo che mai più i fanti passino il progetto piano. Ci vediamo con Patrizio a cantare il sovente. Grazie, penso. Radio Catrame 19, la tua web radio inusuale.